Se guardiamo bene le cose, ora ce ne rendiamo più conto, questo declino non c'è. Certo, abbiamo vissuto momenti chiari di difficoltà e ci stiamo anche oggi. Ma se io penso alla forte ripresa delle esportazioni italiane, beh, io devo dire che questa vivacità, questa capacità di adeguamento è il contrario del declino. Il fatto serio è che cresciamo meno degli altri paesi europei. Abbiamo avuto anche un periodo di stagnazione, ora un po' superato, ma insomma quello è il dato. La risposta è una: creare le condizioni per una crescita più robusta.